fronte, combatterai più forte, combatterai più forte, più forte, rispetterà la forte. Di Roma un figlio in te. Oh, forte di Roma un figlio, di Roma un figlio in te.